Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento anche questa settimana insieme all'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori. Saluto il presidente che è con noi al telefono, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te Carlo andiamo a raccontare una vicenda che è cominciata quasi un anno fa, no? Ed è la vicenda di alcuni corsi di inglese che erano stati sospesi. Abbiamo delle buone notizie, però ti lascerei proprio carta bianca nel raccontare la vicenda. Sì Francesco, una vicenda iniziata alla fine del 2014 circa, praticamente circa 350 studenti della provincia di Venezia e di Treviso si sono trovati improvvisamente con la scuola in cui loro erano iscritti, ed è una scuola privata per partecipare a dei corsi di inglese, praticamente con le aule chiuse. Da oggi a domani, di fronte a quelle che erano le aule in cui esercitavano, praticavano questi corsi, si sono trovati praticamente nella scuola che non ha più dato notizie, e di conseguenza queste persone che avevano finanziamenti pagati in contanti oppure che si trovavano a dover frequentare questa scuola o che stavano già frequentando questi corsi da diversi mesi, praticamente non hanno ricevuto notizie e il numero di telefono a cui normalmente potevano chiedere informazioni c'era una segreteria al quale non lasciava certamente informazioni rassicuranti. Ecco, la cosa che dobbiamo raccontare è che c'erano sì gli studenti che non sapevano bene quale fosse il loro destino, o meglio il destino dei loro corsi di lingua straniera, ma anche i docenti non sapevano bene se avessero mai preso lo stipendio o quant'altro. Corso frequentato qua nel Veneto da circa 350 persone, c'era anche Verona, c'erano decine di studenti, ma c'erano anche migliaia di persone coinvolte un po' in tutta Italia. Comunque questa è stata una scuola, ricordiamo, che aveva appunto una sede, aveva delle sedi dislocate un po' in tutto il territorio, e improvvisamente ricordiamo che era anche prestigiosa, perché insomma era anche una scuola che insomma Dark English è una scuola che è, insomma, esercita l'attività da moltissimi anni, per cui era anche una garanzia per chi comunque si era sentito rassicurato dover pagare in contanti, ma che fondamentalmente, al di là di quelle che sono state le vicende, questi studenti si sono rivolti all'Adico proprio perché preoccupati di quelle che erano le loro sorti, volevano in qualche modo insomma far valere i diritti e capire cosa si può fare in questa vicenda. Di che noi come Adico abbiamo cominciato subito a ricevere queste persone, ricordiamo che sono state oltre 150 le persone che si sono rivolte a noi, e ad oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto dei risultati straordinari in tutti i fronti, in quanto innanzitutto siamo riusciti a pagare, a bloccare subito i finanziamenti in corso, per cui le persone insomma non hanno pagato più le rate nei mesi successivi riferiti a quelle che erano insomma il periodo che insomma tu non è più ultimato le lezioni. Il secondo, per chi invece ha pagato in contanti, ricordiamo che nei casi dei fallimenti sono le persone meno tutelate, sì. E siamo riusciti a raggiungere con la disponibilità anche del responsabile di questa Education SRL, Fantino Vincenzo, un accordo con una scuola di Mogliano, per cui queste persone, grazie a tutte queste attività che in questi mesi si è succeduta, potranno riprendere un corso senza sborsare nessun centesimo in più. Soprattutto anche, come hai detto tu, in riferimento a chi aveva addirittura sottoscritto un finanziamento per potersi pagare i corsi della scuola e poi la scuola era venuta a mancare, però le bollette da pagare no, e quindi una grande opera quella che ha fatto l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre in questo caso. Quindi c'è la possibilità per ognuno di completare il corso. Sì, allora diciamo Francesco che innanzitutto la scuola che si è resa disponibile ad accogliere questi studenti è la Global Language Academy di Mogliano, ed è una scuola molto anche questa prestigiosa, che ha messo a disposizione la propria struttura, la propria organizzazione per ospitare questi 21 studenti su 150 che erano pagati in contanti e che rischiavano di non si recupera neanche un centesimo, se non per effetto di quello che sarebbe un'attività destinata a dover fare quando un'azienda fallisce, che certamente però non dà molte possibilità di poter recuperare qualcosina, in quanto in questo caso i creditori non sono privilegiati. Certamente per la maggior parte, quindi parliamo di circa 130 studenti che avevano pagato a rate, l'ADICO ha proceduto subito a diffidare le finanziarie, le banche, a richiedere i pagamenti, ma anche a richiedere la restituzione della cifra. Certamente una parte di questi hanno già ottenuto anche la restituzione della somma versata anche nel periodo in cui hanno partecipato al corso, quindi questo è stato un risultato ancora più straordinario rispetto a quello che ci attendevamo. Per altri magari non hanno provveduto a restituire la cifra interamente, ma hanno già recuperato una parte di rate. E da dire, questo è un commento personale che faccio, che comunque già aver bloccato un finanziamento e che gli studenti si sono trovati a dover pagare, ad aver pagato solamente per i mesi che hanno frequentato, è già un grandissimo risultato. Certamente oggi qualsiasi altro risultato non potrà che rendere ancora più straordinario quello che è stato un lavoro che, sottolinea l'ADICO, ha fatto gratuitamente a tutte queste persone che si sono iscritte e che di cui noi non abbiamo chiesto nulla, e che abbiamo messo a disposizione tutto il nostro staff e la nostra segreteria proprio per assisterli, e cosa che continuiamo a fare in questo periodo da molti mesi. Ecco, mi viene da dire in chiusura che c'è sempre una speranza, anche quando magari in lontananza pensiamo che non ci sarà una possibile risoluzione positiva per noi consumatori. Invece ogni tanto qualche cosa di buono c'è, grazie anche all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che ci ha raccontato, che si è esposta in prima persona nella risoluzione di questo caso. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento con te Carlo è tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.